Son giochi che cominciano per gioco, il fuoco inizia a bruciare dentro il giorno dopo. Lo scopo è stare bene con se stessi e creativo non poco. Sto con la musica, so contare su di lei come unica vibrazione ludica, focolare che mi illumina. Tocca la mia sola parte lucida, musica. Coricandomi penso ai suoni della voce dai campioni. Storicamente si parla sempre di trasmettere sensazioni, stupefacenti alterazioni, materializzazioni mentali di ciò che dici, conduttrici di citazioni, produttrici e creatrici di nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici. Micidiali evoluzioni in questi ultimi anni, è giusto che i contenuti siano crudi, che trattino drammi, problemi ed affanni, sapersi mettere nei panni di chi non è come te, sai, e quando ti scanni non è che la tua figura riflessa, spesso essi alla tua stessa cabeça e fanno la rissa per pura invidia riflessa. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. Vinili animati da mani, mani vili dai limiti venali. Vilipendi, vendi ma non vali, ti avvali di manovali con limiti culturali. Voli se vola il valore della valuta. Scivoli volubili, vomiti e salume sulla tavola. Agevola il volume avviandolo con la valvola. Altola, chivala, avevola, sensazione stavola. Con la solita vibrazione da favola. Incavolato, richiedo volata bassa. Indiavolato per la vomata grassa che han prodotto nell'isola. Avviso clan, rovinata quanta dignità. Uccisamela, non mi dà l'indennità. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. A scanso di equivoci diamoci limiti. Se scimmioti o imiti il sogno americano, non vali due crediti. Piano è meglio che eviti sti cazzo di archetipi. Studi e siediti. Vedi, noi di qui dobbiamo prendere solo la struttura. So di chi non guarda manco la natura per capire che la nostra è un'altra cultura. Matura un po' caredo guru gabu che non vai con presunta. Segu si shukadu che babu doia dadu guru paffita il mercedes se la ganna gli inicida. Da voi fa bella tricolori, oh fa bella dialetto zirazzi di guglioni. Ama basta con chi io e uotini di canzoni cuconi. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione. DPS la zona in questione.